Va bene, allora, di nuovo grazie per aver organizzato questo ciclo. Arriviamo oggi all'ultimo incontro. Funziona? Arriviamo oggi all'ultimo incontro, che è quello sulla differenziazione. Abbiamo fatto il primo incontro sulle lettere, che di fatto poi è stato il materiale principale su cui si è composto tutto il libro. E abbiamo poi, settimana scorsa, parlato del carcere, diciamo, tra punizione e premio, e abbiamo scelto questo terzo argomento perché in realtà ricollega soprattutto quanto detto la settimana scorsa, diciamo, tra punizione e premio. Infatti parliamo della differenziazione, che nel caso del libro è stata approfondita cercando di partire da un concetto, che quello di differenziazione, che nasce intorno agli anni 70, e che però arriva oggi nel carcere raccontato dei detenuti in maniera più matura e soprattutto più pervasiva, nel senso che esce dai binari, diciamo, a cui era relegata la differenziazione, cioè tendenzialmente per i prigionieri politici, esce e va invece a riguardare, diciamo, certe logiche della differenziazione, vanno a caratterizzare anche altri circuiti e altri regimi. E anche, vabbè, un po' anche forzando questo concetto di differenziazione, però ho cercato di renderlo sempre utile per capire, insomma, com'è il carcere di oggi. Oggi parlo un pochino meno delle lettere alla fine, perché c'è da fare tutta una premessa magari più storica. Poi ovviamente mi fermo nell'analisi, perché non sono nemmeno la persona forse più adatta a raccontare i famosi anni del non è più il carcere di una volta, però sicuramente è utile ricostruire alcuni passaggi, perché così almeno si capisca la differenziazione, che poi dopo viene, appunto, risuona nelle lettere di inviate alla Repubblica. E allora, partiamo da un'idea. Vabbè, a livello di ricerca e comparativa sulle carceri, quello che è emerso sempre di più negli anni, che in qualche modo poi è quello che ci ritroviamo oggi anche in Italia, si fa ricorso a questo concetto della new penology, cioè di questo modo con cui il carcere è cambiato un po' in tutti gli stati occidentali, ovviamente. Perché? Perché cos'è questa new penology? Le carceri hanno seguito una gestione sempre più manageriale, più orientata a una sorta di burocratizzazione della pena, a un calcolo dei livelli di rischio, a una categorizzazione di tipologie di detenuto, ed è qualcosa che, diciamo, viene, almeno secondo i vari ricercatori, da questo imperialismo correzionale. Cioè, se gli Stati Uniti dettano legge su tantissimi settori del nostro mondo, non possono che farlo anche dal punto di vista carcerario. E infatti c'è un po' come una diffusione di tutta una serie di pensiero anche intorno al mondo delle carceri e dei sistemi penali, che viene dagli Stati Uniti. Sicuramente poi ogni Stato ha sempre poi declinato, sulla base del loro contesto specifico che viveva, proprio questo tipo di spinta, diciamo, riformista. E infatti vede poi, come nel caso italiano, un'integrazione di vecchi modi di gestire, diciamo, il carcere. Ricordo sempre, appunto, che quello che ho fatto sul libro è il tentativo di ricostruire un po' la governamentalità, come il carcere viene governato, e nel caso italiano c'è questo mix tra questa spinta dagli Stati Uniti e, appunto, la sua applicazione. Banalmente, in Italia, per esempio, una cosa curiosa, anche interessante, è che ha avuto una grande influenza la Chiesa Cattolica per quello che riguarda, per esempio, il trattamento, quello che riguardava l'educazione e il trattamento. Ci sono degli esempi anche curiosi, dove dagli anni 50 fino agli anni 70, diciamo, c'erano carceri gestite praticamente dal parroco di turno, che gestiva il carcere, l'esemplare, tipo l'esempio del del prete del carcere delle Nuove, che organizzava, aveva una grandissima autonomia proprio all'interno del carcere, organizzava tornei di calcio con i giocatori con le maglie e le divise del Torino e della Juventus, se non mi ricordo male, dove addirittura prima della partita arrivava in elicottero, è arrivato, insomma, in questo racconto che fa De Vito nel suo libro, e arriva in elicottero il ministro della giustizia, che atterra nel campo di calcio e poi si gioca alla partita guardie contro detenuti in queste situazioni che adesso sarebbero proprio inimmaginabili, anche perché banalmente i campi di calcio non ci sono più, i campi interi a 11 non ci sono più nelle carceri, e parte della governamentalità è una risposta al fatto che non esistono più i campi di calcio, perché anche nel libro parlo anche di quello. Però appunto è questa libertà che aveva la Chiesa Cattolica. A un certo punto, mi ricordo, sempre raccontano che agli estremi di questa gestione di questo prete qua c'era il fatto che aveva organizzato una volta uno spettacolo di striptease per i detenuti, tra l'altro aveva organizzato un prete, e questa cosa qua è stata particolarmente vista male dalla direzione, infatti ci sono stati poi problemi. Però ecco, ovviamente in Italia, così come in tantissimi ambiti, la religione ha fatto anche in qualche modo da welfare, pensiamo agli oratori nei comuni, e uguale nelle carceri ha gestito la rieducazione. Poi negli anni 70 c'è stato invece effettivamente l'arrivo, il tentativo di introdurre una serie di norme, leggi repressive che venivano appunto, almeno negli Stati Uniti andavano diffondendosi tantissimo queste politiche che si chiamavano Just Desert, cioè orientate principalmente ad a un incremento della pena e a un incremento anche la criminalizzazione di determinati reati. Però in Italia nel frattempo, proprio in quegli anni lì, c'erano tutte quelle lotte che insomma un po' conosciamo tutti qui, quelle lotte sociali dentro e fuori dal carcere che in realtà hanno fatto come da... sono riuscite in qualche modo a posticipare l'arrivo di tutte queste leggi qua, e di posticiparle di circa di una decina di anni, ma anche rinforzando tutta quella compagine che afferiva alla questione della rieducazione in carcere. Quindi non è un caso, nel 1975 in Italia arriva la riforma carceraria, la riforma precedente che c'era stata era in epoca fascista, quindi nel 75 si vede più o meno, cioè parzialmente, come tanti detenuti, compagni, appunto, ripetono, questo parziale riconoscimento delle lotte poi che c'erano stati in quegli anni. Però in qualche modo con quella legge lì, quella del 1975, già si cominciava a vedere come si stabilizzassero tutto quello che riguardava alcune politiche sul trattamento e la rieducazione in carcere, ma anche i regimi duri. E questo inizia un po' a definirsi quello che poi dopo affronto nel libro, cioè il fatto che l'Italia ha questa caratteristica un po' più particolare rispetto magari ad altri stati di questa biforcazione penale, perché ha approfondito sia l'ambito della rieducazione in quegli anni in particolare, e poi ha preso appunto le tendenze poi intorno alla premialità di cui abbiamo parlato la settimana scorsa, e poi anche il carcere duro, quindi la biforcazione in questo senso, per il carcere duro è quello più soft. Arrivano poi infatti negli anni 80 arriva la repressione e appunto questa biforcazione aumenta sempre di più, e aumenta sempre di più poi negli anni 90 con l'arrivo del 41 bis, diciamo, della lotta contro la criminalità organizzata, e in generale tutta una criminalizzazione in generale dei reati, perché appunto dagli anni 90 iniziano poi ad abbassarsi tantissimo il numero dei reati effettivamente fatti, ma aumentano tantissimo le pene, quindi alla fine ci ritroviamo in tutt'altro carcere. Tra l'altro in una situazione, è anche curioso perché spesso appunto se ne parla in questo periodo qui, si parla appunto di un leggero aumento del numero dei reati, che in realtà non è paragonabile rispetto a quelli che c'erano prima, però allo stesso tempo c'è un'insicurezza sociale, un senso di insicurezza diffusa che è altissimo, e anche questo è interessante. Quindi diciamo, e questa è una piccola sintesi di quello che poi adesso andiamo ad approfondire, in qualche modo in Italia, proprio perché si è sviluppata all'inizio ci sono varie stratificazioni di leggi con orientamenti completamente diversi tra educazione e punizioni. Alcuni autori chiamano insomma questa la condizione nella quale il detenuto deve farsi i conti di flessibilità ed indeterminatezza, perché alla fine uno si ritrova un po' con delle norme che diventano flessibili soprattutto per la controparte, in realtà per chi gestisce poi le carceri, soprattutto in determinazione della propria pena, del proprio percorso, perché non c'è solo, per esempio, in Inghilterra, negli Stati Uniti, magari una definizione della pena hai quella detenzione lì. In Italia, avendo per esempio la questione dello sconto di pena, hai tutta una serie di cose per cui in qualche modo non si capisce neanche bene quanto può durare, perché poi dipende tanto dal percorso poi detentivo che fai dentro al carcere. E vabbè, questo è un po' una panoramica per entrare poi nel merito di quello che è la differenziazione. Quello che ho cercato di ricostruire nel libro rispetto alla differenziazione è come si sono poi diffusi, appunto, si sono uniti tra l'altro in maniera anche complicata, cioè c'è quel managerialismo che dicevamo prima, c'è il trattamento individualizzato che era tutta un'altra scuola che diciamo più psicologica per il trattamento dei detenuti. Questo sviluppo della questione del premio della punizione, questo sviluppo soprattutto delle categorie dei detenuti. La differenziazione in particolare è proprio la creazione di categorie omogenee, no? Di categorie omogenee che poi possono essere divise dal resto della popolazione detentiva, essere meglio controllate, eccetera. Parlavo prima della riforma del 75 con questo riconoscimento delle lotte, di questo tentativo di bilanciare sicurezza e trattamento. Quello che viene subito dopo, al 75, è però appunto il 77. Infatti nel 1977 arrivano le carceri speciali. Con l'arrivo delle carceri speciali, che tra l'altro arriva anche questo per decreto, quindi come misura assolutamente emergenziale, è l'inizio di tutta una serie di politiche che poi ritornano nella storia, così come ritornano negli anni 90 quando arriva il 41 bis, che arriva anche quello come decreto e poi viene stabilizzato come legge, perché poi negli anni 2000 diventa legge. Di nuovo il 41 bis, che anche questo prevedeva la sospensione delle regole penitenziarie, che è come quello che era l'articolo 90, che era l'articolo 90, di nuovo, sempre alla fine degli anni 70, era la sospensione delle regole penitenziarie, perché quando c'erano le rivolte si è pensato a costruire un armamentario anche giuridico per poter intervenire con agilità, con potenza, con forza, anche al di fuori appunto delle regole normali. Infatti quello che raccontano anche, non so, ovviamente Mau, nei vari libri di Maurizio Ferrari, insomma, nei vari racconti che si facevano, era che prima, fino al 1977, a queste lotte che fortissime, che avevano preso piede dalla fine degli anni 60, si pensa al ruolo che hanno avuto i NAP, le BR dentro le carcere, ma anche tutto il lavoro che era stato fatto invece intorno alla questione dei diritti anche dei detenuti, o proprio per la riforma dei codici della Commissione Carceri di lotta continua, per esempio. Insomma, c'era tutta una spinta sul carcere e c'erano dei detenuti che semplicemente venivano, quando a seguito delle proteste, venivano picchiati, torturati, ma isolati, trasferiti, però appunto a cui appunto dopo che dalla Chiesa insomma ha preso controllo di quello che era la repressione nei confronti della lotta armata in Italia, allora ha iniziato a pensare a queste carceri speciali che prevedevano appunto effettivamente una vera e propria differenziazione, prima differenziazione, cioè separare tutte le persone che potenzialmente erano capaci di creare questo tipo, questi movimenti di resistenza, queste coagulazioni di resistenza dentro al carcere, e isolarli dal resto della popolazione detentiva. Ci sono esempi, tra l'altro, anche veramente particolari, perché oggi è impensabile. Abbiamo parlato la settimana scorsa della mancanza, no, di solidarietà tra i detenuti. C'è un racconto di Beppe Battaglia che racconta il tentativo di fuga dal carcere di Favignana, che era nel 74, se non mi sbaglio, lo fece con, lo provò a fare, perché poi dopo fallisce, con due detenuti andranghetisti, che c'è tra l'altro è qualcosa di proprio impensabile se si pensa appunto al periodo del carcere di oggi. Allora, quindi abbiamo queste carceri speciali che arrivano appunto di nuovo l'emergenza da 1000 detenuti a 3500 in pochissimo tempo. Parallelamente a questo pugno duro, e anche questo appunto di nuovo cercando di fare un po' una piccola genealogia dopo della differenziazione, c'è il pugno duro, ovviamente l'abbiamo visto anche la settimana scorsa, c'è il guanto di velluto, e così nascono quello che poi effettivamente dà un durissimo colpo alla lotta armata, le leggi sulla dissociazione e sul pentitismo, che oggi non andiamo più di tanto ad approfondire, però il tema è proprio quello di riuscire, il tentativo di riuscire a dividere in tutti i modi i detenuti, sia coattamente con quello che sono le carceri speciali, sia con le leggi, che poi in realtà facevano proprio rompere internamente il movimento, proprio perché chiedevano al detenuto o fondamentalmente di dissociarsi dal proprio percorso di militanza e che era qualcosa di veramente potente in quel momento, o addirittura di collaborare con la giustizia per di fatto poi mandare in carcere altra gente al posto proprio. E la cosa interessante che si vede in questo periodo qui è che quello che viene dato in cambio di questo tipo di venirsi incontro, è di questa, diciamo, collaborazione, è un percorso detentivo completamente differente da quello che sarebbe stato previsto, cioè banalmente la possibilità di uscire dal carcere. Questa cosa qui viene in qualche modo poi di fatto messa in maniera organica, scritta con la legge Gozzini nel 1986, con la legge Gozzini, dove in qualche modo si insalda quello che dicono un po' il doppio circuito detentivo, dove c'è il carcere più duro, banalmente nella legge 86 viene pensata il 41 bis. 41 bis che non è ancora il 41 bis che conosciamo adesso, perché quel 41 bis lì è quello del 92 a seguito della, dove appunto a seguito della uccisione di Falcone Borsellino diventa appunto quello che conosciamo noi oggi, ma era il 41 bis appunto la ripresa di un articolo che era stato abrogato, che era l'articolo 90 della sospensione delle regole del regolamento penitenziario in caso di crisi, pericolo di ordine interno all'interno del carcere, che viene di nuovo ripreso e diventa appunto accettabile, proprio previsto dalla legge Gozzini. Ma quello che fa anche la legge Gozzini, che cos'è? È inserire il beneficio penitenziario, cioè, di nuovo, era quello che accennavo prima, cioè la possibilità per i detenuti di avere un miglioramento del proprio percorso detentivo in cambio di un certo livello di collaborazione. Chiamiamola, se vogliamo, rieducazione, ma in pratica tra i valori che ci sono più forti a governare questa cosa, l'abbiamo vista la premialità la settimana scorsa, dove in qualche modo tu segui un percorso detentivo, magari lo sconto di pena, ma in cambio di questo tu hai un percorso sempre più individualizzante, sempre più contro la solidarietà, diciamo che era un grande, la solidarietà interna tra i detenuti, che è sempre stata una caratteristica peculiare del carcere, del mondo del carcere in quegli anni e prima, e in qualche modo e questa cosa appunto portata agli estremi, l'abbiamo visto anche la settimana scorsa, ha rotto anche in alcuni casi agli estremi nel carcere, diciamo, contemporaneo di oggi, a volte anche le frontiere tra guardie e detenuti, nella misura in cui essere a disposizione vuol dire essere disposto a collaborare, vuol dire proprio a volte anche informare la direzione di quello che succede all'interno del carcere, creare e riprodurre un tuo sospetto tra i detenuti. Quello che è un po' la forzatura che provo a fare nel libro è prendere quello che è il ragionamento intorno alla differenziazione e specialmente alla costruzione di percorsi più facilitati. Pensiamo forse è più facile da capire se pensiamo alla questione dell'ergastolo ostativo. L'ergastolo ostativo è il carcere a vita che fino al 2019, prima che uscisse la sentenza della Corte di Cassazione, prima la CEDU, non prevedeva che una persona potesse uscire dal carcere, da una detenzione di fatto a vita, non potesse accedere ai benefici a vita a meno che non collaborasse con la giustizia. E questo è proprio un elemento che diciamo proprio che ritorna in diversi momenti della storia, a distanza, qua parlavamo della fine degli anni 80 e ora siamo nel 92 e appunto ora invece appunto è proprio un meccanismo ben rodato appunto da diversi anni, tanto che da questioni più emergenziali sono diventati effettivamente più strutturate, più legiferate, però appunto la forzatura è quella che da un lato il guanto di velluto viene offerto anche per quello che veniva chiamato nemico interno, per diciamo il nemico interno che poteva essere il mafioso prima, chi faceva parte della lotta armata, e invece ora in qualche modo si è diffuso, come se adesso sempre più tanti altri circuiti possono, tanti altri detenuti nella media sicurezza, nella bassa sicurezza, sono sempre più spinti a, piuttosto che evitarsi appunto il pugno di ferro, perché no, collaborare a vario titolo, tanto che facevamo riferimento anche la settimana scorsa al patto di responsabilità, che all'interno di diverse carceri è sempre più facile trovare per esempio detenuti che appartengono alla sezione dei protetti. Perché? Perché comunque sia i detenuti firmano all'interno di quella sezione, possono firmare questo patto di responsabilità che garantiscono appunto che la persona che nel carcere di una volta mai avrebbe messo piede, diciamo, nella sezione, ora può entrare e può entrare appunto, fa il carcere così come tutti gli altri. Questo è appunto, questo è il tipo di lettura che viene fatta intorno alla differenziazione. Quello che ha prodotto poi questa differenziazione, se appunto nel 77 vedevamo il carcere speciale, nel 92 abbiamo il 41 bis, oggi abbiamo tutta una serie di situazioni nelle quali una persona può essere detenuto tra circuiti e regimi. Abbiamo i circuiti dell'alta sicurezza, della media sicurezza, della bassa sicurezza, abbiamo i regimi del 41 bis, abbiamo l'isolamento diurno, la 14 bis o anche l'articolo 32 che viene utilizzato anche questo un po' come isolamento, e offre praticamente un sistema integrato tra premio e punizione con il quale il carcere viene gestito. Una delle cose, degli sviluppi, perché poi questa è la premessa di come di da dove viene questa spinta poi di appunto di legiferare intorno alla differenziazione. Nelle lettere di Olga nel carcere contemporaneo io ho cercato di ricondurre alcuni filoni di questa differenziazione, alcuni sviluppi di questa differenziazione. Uno di questi, per esempio, è il passaggio dall'elevato livello di vigilanza all'alta sicurezza. Praticamente che cosa succede? Nel 2015, fino al 2015, c'era l'elevato di indice di vigilanza, che cosa era? C'erano reclusi, detenuti, che adesso starebbero in alta sicurezza per reati legati a mafia, dei reati legati alla mafia, al terrorismo interno, chi per reati più politici, cerco di farla semplice, spero che il mio avvocato non si offenda, reati più legati appunto sempre al terrorismo interno, internazionale, con una matrice più politica o addirittura quella religiosa, per quello che è stato il terrorismo jihadista più recente, e poi c'erano reclusi anche tutti quei detenuti che erano un po' quelli ingovernabili, che insomma non sapendo più dove metterli, perché ovunque andavano facevano casino, venivano sempre messi in un unico regime. E quello che è stato fatto nel 2015, senza che ci fosse una particolare emergenza, perché abbiamo visto che le carceri speciali per l'emergenza, diciamo, di tutti i movimenti intorno al carcere negli anni 90 e con il 41 bis, l'emergenza mafiosa. Nel 2015 non c'erano dei particolari spauracchi intorno alla questione dell'ordine interno intorno al carcere, se non che c'era un sovraffollamento da paura, si veniva dalla legge Torreggiani, ma dalla sentenza Torreggiani, scusate, ma non c'erano questo tipo di emergenza. Ma il carcere, seguendo appunto il ragionamento, appunto, e qua lo riprendo per dire come alla fine di tutto la differenziazione sia ancora un modo con il quale si ragiona e si governa il carcere, si è pensato di dividere quindi l'elevato indice di vigilanza in alta sicurezza, o meglio in tre alta sicurezza, cioè la S1, la S2 e la S3. Nella S1 vengono detenute tutte le persone che escono dal 41 bis, spesso hanno anche l'ergastolo ostativo e vengono lì detenute per appunto spesso reati legati, la maggior parte della gente in S1 è gente che ha reati legati di stampo mafioso, reati di sangue, eccetera. Nella S2, dicevamo, ci sono i politici e religiosi, diciamo, e invece nella S3 tutti quelli che sono legati alla questione del traffico di stupefacenti internazionali, diciamo. Sempre legato alla mafia, ma appunto ovviamente figure di spicco, ma non per i reati di sangue che dicevamo prima. E qual è la cosa interessante di questa divisione? Che di per sé così, cioè, ci interessa fino a un certo punto, vabbè, hanno cambiato le cose, però no, la cosa interessante è che quello che è stato fatto è stato un ulteriore sviluppo di queste categorie, di questa capacità di categorizzare, di dividere in categorie detenuti e anche di osservazione nei confronti di questa. Ci sono una serie di cose che dovrebbero essere anche approfondite di più, io purtroppo nel libro non l'ho potuto fare, però in questi regimi qua spesso si vede proprio quello che alcuni detenuti spesso tirano fuori, di quel strano mix che c'è nelle carceri italiane dove c'è potere esecutivo e potere giudiziario che si sovrappongono. Normalmente in più occasioni in Italia sono venuti fuori questi elementi, come quando si dice, ricordo una volta anche la Cartabia, quando era ministra della giustizia, diceva: vabbè, ma non è possibile che al DAP, che dovrebbe essere appunto il Dipartimento di Amministrazione Penitenziaria, siano degli ex magistrati antimafia a gestire la questione delle carceri. Perché dico questo? Perché dico questo? Perché quello che ci raccontavano, per esempio, emergeva più che altro nella detenzione, uso l'esempio che magari che può valere anche per tutti, per il terrorismo islamico, c'era stato tutto un lavoro, quando sono state fatte le sezioni legate al terrorismo islamico, sulla costruzione di livelli di rischio, questa costruzione di una categoria di detenuti appunto radicalizzati, calcolo per esempio del livello di radicalizzazione dei detenuti, dove in qualche modo in quel regime lì viene approfondito, non tanto, cioè sono tutti lì per un reato che hanno fatto, però effettivamente una volta dentro c'è uno studio ulteriore rispetto a chi sono loro. E questo è una determinante peraltro anche del percorso che poi andranno a fare all'interno del carcere, perché poi se uno è più, come dire, radicalizzato e visto in maniera molto più problematica, avrà molta più attenzione, potrà avere molti più problemi una volta che finisce dentro, e banalmente avrà molto probabilmente delle valutazioni molto negative, e quindi tutto questo comporta proprio una ulteriore, come se fosse un'ulteriore criminalizzazione all'interno del carcere per quello che si è, più che per quello che si è fatto. Ecco, in qualche modo, è questa la questione che è più interessante, è proprio strettamente legata alla differenziazione, perché non è più, tra l'altro, solo un dividere un pezzo della popolazione detentiva dal resto della popolazione detentiva, ma è proprio dividerla, studiarla, categorizzarla e via dicendo. L'altro tema, che invece questo è più uno strumento nelle mani della differenziazione e che secondo me può essere interessante per discutere intorno a questa, è stata la videoconferenza, almeno io la incastro rispetto a quel ragionamento lì. Tra l'altro uno strumento, perché è una tecnologia che poi in sé per sé, come spesso capita per la differenziazione non viene percepita come una roba di primo acchito direttamente negativa dalle persone che non la subiscono. Quindi la videoconferenza, per esempio, per tante persone, soprattutto dopo il Covid, è una cosa che per tanti si diceva: vabbè, meno male, mi risparmio dei viaggi che non voglio fare, degli sbattimenti che non voglio fare. Diciamo, non per forza è vista in maniera negativa. Però invece nel racconto delle lettere che ci arrivavano ad Olga, soprattutto in quel periodo in cui la videoconferenza è stata inserita, e ovviamente è stata inserita in maniera assolutamente soggettiva, anzi, non a caso, è stata spesso utilizzata per ragioni di sicurezza, cioè giustificata dalle famose ragioni economiche. Faccio gli esempi, non so, i maxi processi per mafia, si diceva: vabbè, si risparmiano un sacco di soldi facendo così. Però in pratica anche c'era l'altra giustificazione, sempre stata quella della sicurezza, per esempio, per, si diceva, il tentativo di evasione nel trasferimento da un carcere all'altro, oppure la insicurezza che si può creare nel momento in cui c'è il processo e magari ci sono solidali che vanno a sostenere la persona in carcere. Però ecco, chi scrive ad Olga, e parliamo, per chi non c'è stato nelle altre presentazioni, periodo dal 2005 al 2021, sono diverse le lettere di chi era in alta sicurezza oppure era anche comune. Per esempio, penso a Maurizio Alfieri, era detenuto comune, ma era una persona molto combattiva all'interno del carcere. Quello che è successo dopo un po' è che gli facevano fare le conferenze, non andava in tribunale, ma appunto faceva tutto in videoconferenza. E questo qua cosa emerge? Emerge proprio perché, di nuovo, la cosa utile, la scelta mia di occuparmi di lettere di detenuti in lotta è una cosa, secondo me, significativa, perché spesso sono proprio quei detenuti che sono i primi a subire le nuove strategie poi del potere, perché sono quelli che appunto ci vanno contro e sono i primi a subirle, sono quelli che subiscono anche in maniera più intensa queste nuove modificazioni. E questo lo si vede appunto nella videoconferenza, dove le persone per prime si rendono conto di l'allontanamento sempre di più dal pubblico, di loro stessi, e raccontano in diverse lettere come ci si ritrova di fatto, come funziona la videoconferenza, mentre il processo è in corso in un posto dove tu hai il processo, tu sei da solo in una stanza del carcere, tra l'altro in questa condizione detentiva, per cui in qualche modo già anche molto simbolicamente rappresentata che sei già in carcere, nel senso che spesso e volentieri magari il processo è sulla tua presunta colpevolezza e tu già sei in carcere e assisti da lì. In più sei separato dal pubblico, non hai tutto quel supporto che possono essere i familiari, i solidali, gli amici che ti vengono a sostenere. In più c'è una scelta da fare, l'avvocato deve scegliere se stare con te nella stanzetta e la guardia, perché tra l'altro se non sei con l'avvocato sei solo tu e un agente, l'avvocato deve scegliere se stare nella stanza con te o dentro o nella corte. E questo cambia anche tantissimo rispetto alla difesa, perché essere in una stanza è molto più complicato per quello che riguarda la difesa che stare nel processo e anche per seguire tutto quello che, non sono avvocato, però quello che succede poi nel rito. È difficile per il detenuto dire quello che vuole dire, perché una volta che è nella sua stanza può chiedere di fare l'intervento. Quando chiede di fare l'intervento lo dice a un microfono e il giudice decide poi di dare l'intervento, e l'intervento poi lo fa. Ma questo intervento non può essere neanche troppo lungo, perché poi il giudice può decidere che, sempre con lo stesso tasto con cui gli ha dato parola, può decidere di togliermela. E questo è appunto l'esempio ennesimo di una progressiva appunto spersonalizzazione, separazione, impossibilità proprio, impotenza se si vuole, di poter esprimere quello che si vuole dire. Infatti spesso, sempre più, gli interventi che si fanno dalla videoconferenza sono sempre più brevi, perché tanto non te li fanno fare, è inutile che lo fai lungo, prepari lungo, perché poi dopo tanto non ti danno la possibilità di farlo. E questo è solo uno degli altri sviluppi di questa differenziazione, che in qualche modo vede una progressiva scomparsa dell'imputato in cambio di una giustizia che è sempre un po' più burocratizzata, sempre più spersonalizzata, insomma. Questi sono appunto la parola, la presentazione che avevo pensato ad oggi, collegando, cercando, tra l'altro è un po' difficile perché ci sono dei temi che meriterebbero di essere approfonditi a parte, e altri, sia del carcere di una volta sia di quello che è oggi, però appunto ho cercato di contenerli. Grazie. Io nel libro ne parlo, effettivamente, perché per me all'inizio c'è un po' una cazzata, no? Però sempre più detenuti scrivevano che scomparivano i campi grandi di calcio. Quello che è successo è stato che tendenzialmente, tanti campi di calcio sono scomparsi perché ci hanno costruito delle calci, degli spazi nuovi di detentivi a opera. Sopra il campo di calcio ci hanno fatto il nuovo edificio che dovevano costruire, ma in realtà poi c'erano anche delle lettere che facevano, hanno fatto anche delle riflessioni su questo, perché dicevano che da un certo punto di vista costruire piccoli campi di calcio è molto, diciamo, tutte queste politiche qua sono legate anche a un generale, a una più facile controllo dei detenuti quando sono a farsi l'ora d'aria, perché banalmente immaginati un campo di calcio a 5, perché poi quello che hanno fatto è stato, dove non hanno costruito, hanno diviso i campi grandi, ce ne hanno fatto due magari piccoli a 5, quindi 5 contro 5. Questo cosa vuol dire? Che le persone presenti lì sono 10 e sono molto più controllabili, invece quando fai una partita di calcio sei 22, sono 22 persone con magari la tifoseria intorno, spesso anche nei racconti, nelle ricerche vecchie sul carcere, appunto, no? Non di questi anni, ma di quando, appunto, per esempio negli esempi che dicevo prima di sto prete al carcere delle nuove, era proprio un casino quando c'erano le partite di calcio tra quelli che giocavano, che erano tantissime, che poi magari poteva succedere che magari ci si litigava, che ne so, e quelli che stavano a guardare, che magari erano lo stesso numero, era una situazione che era ingestibile. E quello che è stato fatto è sempre secondo una razionalità proprio del carcere, di voler dividere e controllare meglio il numero di persone e le attività che si facevano. Però sembra una cosa scontata, però è proprio figlia di queste politiche di governamentali, secondo me. Devo vedere, perché ci sono le lettere, da qualche parte ci sono le lettere di dove... In diversi scrivevano, anche qua hanno tolto il campo di calcio, anche qua hanno tolto il campo. Allora c'è questa lettera, c'è il programma aggiornato con i due conti che vi ho detto, c'è il libro che c'ha, poi in realtà ci sono anche delle altre parti, c'è tutta la questione dell'abolizionismo, cioè ci sono delle affrontati anche dei temi generali dell'approccio al carcere, che non sono rientrati in queste cose qua,